Grazie per aver deciso di ascoltare questo disco. Alla fine di cosa vuoi parlare? Cioè, stai lì a fare le canzoni col computer, quando è finito non è che... Cioè, non è che uno ti ha preso a schiaffi mentre suonavi la chitarra, eri lì col computer, boh. Vabbè, onesta come posizione, ecco. Sì. Check.